10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, hola, 1, 2, 3, prova. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? E tu a chi vuoi? Ciao già, buonasera. Oh, oggi nel adesso mi stavo, sembra che te l'abbi pensato. E io stavo lavorando. Cazzo, ho acceso adesso perché stavo lavorando qua. E in più ero tutto il giorno in giro oggi. Beh, a tutte, io sono uscito solo stamattina, sono andato a comprarmi la carne e poi niente, sono andato a Canica a mettere il gas e la macchina e poi me ne sono tornato a casa. L'ho lavata la macchina. E io ho trovato Bruno stamattina, ho trovato, ci abbiamo preso il caffè assieme. Poi ti ho mandato anche delle fotografie, tu non le hai guardate, deve essere su WhatsApp. No Natalia, non ci ho fatto caso, perché ero impegnato, capito? Sono andato fuori, quindi non ho guardato il telefono, dico la verità, adesso è in carica perché la scarica, stavo cantando e non mi sono accorto di nulla, boh. E canta, canta, tu. E è meglio cantare così che cantare in questura. Bello, senza ombra di dubbio. Caro Gianni, quello senza ombra di dubbio. Aspettina, c'è roba buona lì. In quelle fotografie. A vedere se ti piaceva, era. Ah, la pasta, sì che l'ho vista. Sì che l'ho vista da lì. Cazzo, con chi su ho fatto per i mumati brechi, ti sei muovata a me fa oggi. Bravo, bravo, tu cucciamo. Eia, ci ho messo anche 3 o 4 gamberi in mezzo al sugo. Guarda, era una bomba. Non lo posso immaginare. E adesso un giorno bisogna che mi decida, vado a prendere un po' di cozze, un po' di arselle, qualche gambero e mi faccio un risotto alla pasta alla pescatore. E il risotto alla pescatore l'ho fatto cos'è? 2 giorni fa mi sembra. Buono cazzo, una buona birbero. Ma con i frutti di mare freschi? E allora, con i frutti di mare l'ho fatto, io lo brivia. Cazzo, ma tu dovevi mangiarlo, roba buona simili. E tu il sugo di granchi, ma mangiarla. Con granchi spaccato in due, ma sono il sugo, oiui. Già lo so, mamma mia. Sei a cucinare roba, oi. Già lo so, già. E cosa ti voglio dire? Ho trovato a Bruno stamattina, ti stavo dicendo. E ci abbiamo preso il caffè insieme, ci abbiamo fatto 4 chiacchiere. E Bruno c'è sempre lì. C'è sempre, almeno che abbia qualche imprevisto o qualche cosa da fare, se no ci va sempre a Plattavola. Sempre lì vicino alla torretta lì. E lo so, io sono sceso così a pigliarmi un po' di sole. E tanto dovevo aspettare per forza perché dovevo andare alle 11:30 a pigliarmi quel referto lì, che ti ho detto, no, di quell'esame che ho fatto. E l'ho già mandato all'amica di mia moglie e ha detto che va tutto ok. È meglio così, Natali. quindi non c'è nessuna arteria ostruita. Quello lo vedono con l'attacco. Ha fatto la chirurga, mi ha fatto l'eco Doppler, mi ha fatto, però per vedere come sta andando il sangue, quell'attacco serve per vedere come sta circolando il sangue, mi. Ho capito. Vabbè. Hai fatto l'utile dilettevole. Sì, sono andato pure a pigliare roba, mi ho preso le fascette che mi servivano, quelle fascette per stringere i cavi. Dammi cosa giubilare? Ah, la roba Barugani, ma giubiliato. E già ne ho fatto dei giri. E adesso, da quando hai trovato il parcheggio lì, da quando si è parcheggiato lì, la macchina la stai muovendo di più. Sì, e poi ho camminato un bel e oggi non mi ha fatto male, che a me mi pare c'è arteria, mi si è sbloccata, perché sennò mi veniva un dolore allucinante già. Ho camminato un bel oggi. E tu cosa vuoi che ti possa male? È meglio così, Natalia. E lo so, perché la chirurga mi ha detto di camminare. Mi ha detto, per vedere quanti metri facevo per farmi male, ma a giudizio non mi ha fatto male, sono andato lontano, a piedi. Sono andato 3 volte, cazzo, ho portato il cane prima, poi sono andato a prendermi la macchina, ho fatto quei giri lì che dovevo comprare roba. Più sono andato a Platamona, poi ho camminato anche lì, ho camminato a piedi, insomma oggi già ho girato, va. Almeno ti muovi un po'. E anche io ci avevo roba da fare stamattina, infatti, ma solitamente sto uscendo poco, il sabato notte solo sto uscendo e buco. Sì, ho capito, e cosa vuoi? In più mi si era rotto il guinzaglio del cane, il moschettone, e gli hanno dovuto sostituire, gli ho messo un attreccolo e gli ho messo il moschettone nuovo, perché non si può aprire quel guinzaglio che ho io. Vabbè, dai, già mi sono arrangiato. Poi anche il mio ha sfasciato a peggio il moschettone. Ho visto la dirigetta, mattina da giovedì mi è stato salurato e ha spaccato il moschettone, te l'immagini? No, il pulsante per aprire si è rotto del moschettone vecchio. Gliel'avevo messo uno che c'avevo io qui, però si apriva. Mi si è messo 3 voci su Manzano. E paghi su già. Sono andato via Boggino lì e ho preso uno di quegli affari. Di quelli a fare per tenere i moschettoni, di quelli che si chiudono col bulloncino. E gli ho messo quello lì, almeno sono sicuro che non esce. Quello che quando si chiude il moschettone ha vitti, così. Ha vitti dove è un affare che tiene il moschettone e ci metti dentro il bullone. E quindi no, non i buci. No, non ho capito qual è. Robin, c'è qualcuno che vuole entrare? Dice che accendeva Bruno. Ehi, vabbè, se lo sentiamo già lo facciamo entrare, non c'è problema. È a UE questo affare. E c'ha nella punta dove entra il bulloncino, mi. Ho capito qual è. Quelli che si usano anche per bloccare i nodi dei cavi dei tiranti. No, quello ne ha 2 di bulloncini, invece questo è passante, in mezzo passa. Capito? È a U stesso, come. Però c'ha l'avvitatura per il bulloncino. Piccolino è. E tiene il moschettone, se no come faceva a metterla, perché non si può aprire quel guinzaglio, e l'ho dovuto fare quell'attreccolo lì per mettere il moschettone. Cappagatta, vabbè. E anche io l'avevo messo nuovo, gli ho messo di quelli per fare arrampicata, di quelli in alluminio, va benissimo, solo che quello lì, quando parte la molla, a furia di tirare, si parte quella molla che lo fa chiudere e si apre, allora bisogna cambiarlo, quando si apre bisogna cambiarlo perché non si può più fare niente. E se no rivai su come te la giubatto io. E così non ne c'è più, e le puoi pure tutti i moschettoni che ti pare piazza a te. Perché per il cane che c'è tu vuole un moschettone resistente, vuole, non che sia in alluminio che non servono un Kaiser. Io ne ho messo uno in acciaio, però mi s'apri. Quello lì mi s'apriva e allora gli ho dovuto mettere un moschettone di quelli proprio a guinzaglio. Se li usano per fare arrampicata, quelli che ho preso io, fanno arrampicata che ha le corde ruppie con quei moschettoni. Ma chi ci sono maduri, so? Io l'ho preso più piccolo, l'ho preso grande, dai. Ma che si, chi s'abrini? A me mi si abbiano guarda, tre gusti oggi, e dov'è? L'avevo messo qui, l'avevo messo. Tu lo posso vedere? Cazzo, e poi la molla dolce, è puro sabri. Col guinzaglio va male questo moschettone, dimmi tu. Probabilmente si apre perché non è adatto per quel tipo di tiraggio. Infatti, mi riporto la fotografia e ti lo mando da voi. E ti posso dire che la razza di moschettone è questo qui. Eppure, gatta, mi si è messo tre buci si mangiano. Allora gli ho fatto quella tre colonie e gli ho messo il moschettone suo proprio. Nuovo anche quello. Solo mia moglie dice che è troppo minori, mi rompo più mano, non c'è problema, no? Tanto sempre in chivi lo devo punire. Perché quel guinzaglio che ho io non si può aprire e quindi devi farli, ma forse sono a tre crusimili a punirli in uno schettone. Ma così, meno male che il cane mio è bravo, come vedeva che si apriva, si fermava, no? E io allora glielo rimettevo, ma dimmi tu. Perché ha paura che lo lasci, che l'abbandoni, fa così. Penso quando mi metto a correre, no? E poi mi fermo, si gira a vedere se sono appresso a lui. Guarda, quando io lo portavo senza guinzaglio, siccome io camminavo piano per la gamba, no? Mi aspettava, si fermava a un certo punto e mi agitava. Finché non arrivavo io non tornavo a andare. Deve essere che Timmy gli dava la giura. E allora si gira ogni tanto a vedere se sente il guinzaglio molle, che non è in tira il guinzaglio, che lo sente molle. Che a volte mi avvicino molto a lui, quindi rimane più molle, no, il guinzaglio. Si gira a vedere se ci sono. Io lo grido già. E poco dimmi, Lugani, mica andai così. E infatti il mio senza guinzaglio lo portavo, il mio va senza guinzaglio se io lo voglio fare andare senza guinzaglio, e mi aspetta pure. Sì, sono intelligenti, e perché quando deve scendere giù non lo capisce, ti fissa e poi dice e va verso la porta, e allora arriviamo con un peso che si può fare a giosso. Il mio mi abbaia già, quando vuole scendere giù a fare la pipì, perché quando gli dico cosa vuoi, glielo chiedo io, no? E lui allora risponde, abbaia attorno, se è quello che dico io. Adesso per dire, l'altro giorno stavo cantando, si è messo a cantare anche lui. E così fai, mi cazzo canto sotto occhi. Aspetta un attimo che sono stato. Ha mandato quella del tabacchino, gli serve la macchina, ha bisogno di intendimare, chissà. E ha mandato che gli serviva la macchinetta della pressione. Oh già. Chi è? Chi è? Ti piaceva? Ti piaceva? E cosa già? Il bip. Bip. No, ce l'ho attaccato sia Galaxy, aspetta che ho messo del tutto, con la sua acceso. Io ho più acceso adesso. Sta fischiando. No, non stava fischiando già. Tutto questo casino tu lo senti, tipo splatter, ma non sono splatter, sono propagazione del verso. Eia, io ho messo lo squelch, così sento la voce tua e blu, la voce calda della frequenza. Eia, sì sì sì. Andare, eia. Ma cosa state dicendo? Cosa state dicendo? Via quel California, ami. Bubu. Ma mi sentite? Sì. Non si intendi. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Natalie. Ciao Gian. Fra. Oh Fra, ma hai visto cosa hanno fatto, la segnaletica che hanno fatto di fronte al rifornitore che c'è a carica, non si può più girare qui il rifornitore. Yes. Allora ti devo andare a girare io, boh. Devi scendere più giù e entrare nel rifornitore, capito? Stanno facendo un casino già. Solo, capito, si può andare solo dritti e buh. Non si può girare, dovranno fare un'incanalatura per girare verso il rifornitore. Per carità, è un casino. Non se ne capisce più niente, allora. La verità, esci un attimo, voglio vedere una cosa. Ok, vai Natalie. No. E stamattina ho trovato a Bruno. Oh, e ci abbiamo preso il caffè assieme, fra. Ah, Bruno, ho capito. Cosa c'era pure Antonello? No, io ho trovato a Bruno, solo Antonello non c'era. Biondo. Ecca, pagava. Ciao, Emanuele, avanti. Ehi, tutto a posto, ciao, Natalie. Ciao Manuele. Non è, sta arrivando basso. Io non lo sento. Come la modulazione è... Manuele, è troppo basso, se arrivendi. Forse c'è un po' di QRM, io ho capito. La propagazione lo sta coprendo, ecco perché. Anch'io ho propagazione qua, lo sentivo basso basso, quando io lo sento sempre bene Emanuele, solo che adesso c'è propagazione. Prova a parlare Emanuele. Sì, dai, non c'è problema, dai, vi ascolto, tranquilli. No, io già ti sento, però c'è la propagazione e viene male ascoltarti. L'apparato che va prima ci va forte perché era l'altro apparato. Io lo sentivo sempre bene a Emanuele. E quando c'era il presidente usciva ben bene. Oggi stasera lo sento bassino, mi di radio. Io proprio lo copro la propagazione, lo sento, ma molto basso, molto basso. La propagazione è superiore. E infatti, aspetta che non sta male. Santiago 9, quasi 9 mi arriva già. Beh, un po' forte. rompersi e si anche di splatter, mi fa. Non lo so. Come mi ascolti a me? Bene. Deia. Sto usando le mie MB4. Sì, ti ascolto bene, fra. Ehi, cappa, allora lascio così, dai. E poi vai, come mi ascolti? Ma passato. 9.40 e Radio 5. Che vai, vai. E adesso c'ho più ricezione con questa, capito? Vabbè, non sono ancora passato a vederla. E quando passi la vedi? Ma mi sono messo distante dal microfono, se no, lo sto provando in distanza dai miei ascolti. Quindi l'altra si è riempita l'acqua, fra. Guarda, te la posso vedere, è tutta, era tutta piena d'acqua, è tutta butta male. Se la butta la loggia non ci sono problemi, o te la buri, non è. E se non si vede cosa me la fa. Magari la pulisci e la tiri, dai. Va. È tratta acqua, come l'ho tolta ti sto dicendo che era tutta. Se c'avevo due distrazionarie. Te la metti in campagna, te la pulisci e te la metti in campagna, così quella è piccola, la roba le scatole. Quella sei già le stiva, eh? Sì, magari in campagna, ma non è messa in campagna già, me l'ho tolto pure dalla macchina, penso a tu. L'hai tolto dalla macchina, adesso che magari parliamo. Potevi lasciartelo, perché l'estate non c'è nessuno, ma qui quando viene il freddo e coso, la gente se esci ce l'hai. Ma poi attenzione, lasciare la magnifica, perché se no se metto quella non sento la radio, ho capito già. La magnifica, boh, è come ti ho fatto io, la magnifica non ti dà nessun fastidio. Se lo sapevo, grazie che quell'antenna me ne cadeva, non l'avrei mai messa, e ci avrei messo direttamente questa che ho adesso. Cazzo, mi ha arruinato una macchina, me l'ha graffiata e ammaccata. E appunto, e io ho quelle magnetiche, quelle grandi, me. Ma sono quella marcatura piccola e piccola, però cazzo rompo le scatole, la macchina nuova. Ti grattato la cappotta, è un casino. A me mi sei passato il porta possibile di trovare baracchino di la macchina. Ci mandano giocando da punile per la porta possibile in barrato. Ah, mi tocca pure il miro nuovo. Ma possibile, forse c'ero io, Natali. Com'è il capo di lì? Di quello rosso e nero è il capo. Però il porta possibile mi si è rotto. Sì, già te lo do io che c'ero, dai, non ti preoccupare. Sì, dovrei avercelo anche io, no? Non c'è problema per quello. Non ha giù manco di caldo oggi, a chi tutta la lì in giro. Poi stasera stavo facendo cosa qui, mi stavo aggiustando l'affare del miniera barra dalla sbarra, dall'armadio, no? E gli ho comprato gli attacchi in ferro adesso e li ho piazzati. No, io ti stavo chiamando stasera, visto che non ho trovato. Ah beh, da cantare vini voci, no? Ci arrivano forte. Aspetta, forse ci arrivano. Aspetta, c'era una propagazione nel canale di chiamata paurosa. Adesso non ho guardato, ma c'era, in banda laterale c'era un po' di propagazione. Non è più gana oggi perché ero impegnato, vendicosa, e quindi non ho fatto nulla. Ma che l'Italia c'è? No, italianismo, tutta roba di pura. Sì, allora era Milellucci. In Italia, cazzo, non ne ho più sentito neanche uno. Sono tutti la parte accesi per farli scaldare. Perché sennò poi si rovinano, eh. Adesso tutte le sere li accendo, quindi almeno scaldano. Sì, ma quando parli non accenderli, no, che ti satura lo stadio di ricezione. Anche se non hanno l'antenna arrivi fondo scala a Roma stessi. Adesso come sta arrivando? E tu mi arrivi fondo scala qua. Però anche quegli apparati che hai tu, se parli, non li lasciare accesi, no? Accendili prima di parlare, magari, e dopo li spegni, il tanto che scalda, no? Faccio girare da un euro le cacotte. Minca. Questo è quello che esce meglio, vero? Questo è quello che esce meglio. Sì, ma questo qua è il Galassi Saturnetto. È sicura rido. Chi su ci deve aprire l'apparato? Solo che è troppo barrasone, io non me lo posso mettere un apparato come quello qui. Dove me lo metto? Ti abbassa lì. E poi ci vuole il mobile oppure gli scaffali, qualche cosa ci vuole per metterlo dentro, perché questo occupa molto spazio, però come c'è lui a me non mi dà nessun fastidio. Non so, io qua se metto un mobile me ne devo andare io. Una lascio, vai. Ti fa invece una carità, lo già meglio, perché sono andato a prendere lui per il coso, per il fucile, capito? Ho capito. Stavo dicendo, tu mi hai detto Riginesi, vai da Riginesi a pigliare la guaina termorestringente. Non nani, cavolo. Ah, e mi serviva anche per quell'affare del portafusibile. Ma chi ti ha detto che non sei andato? Dovevi andare da Bricocina a due, non sei andato? Laghi su, onde andiamo sempre noi? No, laghi su, da Bricocina, se no era Brico, ma ci sono tutte le misure. Sono a spezzoni di un metro, oppure ci sono dei tubi, praticamente anche di confezione, capito? Quei autoristringenti si chiamano. Sì, vado a Bricomena allora, capiti? Perché mi serve per quell'affare là. Oh signori. Vabbè, andiamo bene, andiamo, vai già. Ma qua è come se ci mettere il filo elettrico. Ehi, quello che poi lo scaldi, con l'accendino. E ora si chiama termorestringente, non autorestringente. Termorestringente quello lì è. Il termo restringente, guarda, lì come virali, ce l'ha tutte le misure quello lì. Sì, me ne serve un po' di quello, se no non posso dar nulla. Anche per il dipolo che devo fare, bisogna, mi serve quello. Già, è già. Ma il filo ce l'ho io, come non è prendere. Un'altra cosa. Che stavo chiamando, sono uscito, sono andato alla Recatro a prendere quella roba. E ho visto quelle cose là, quelle canne da spinghi. Ma non mi piace. Vai da Dore, no da Decathlon, vai da Dore e te la pigli uguale a quella che ho io. Amore, sensibile, A te non credo che la propagazione a Santiago Nobbe, allucinante. A chi la mia non è sensibile, chissà che va giù. Mica è una delle migliori, chissà che va giù. Ho visto la live, è bella, ma col cabù usato da Santa Rita. Fra la radio dove sto uscendo con le BB più 4. Va bene già, è l'uscio. Allora, io ho fatto la modifica adesso con il più 4. Ah già va bene. Ah che poi ce l'ho modificato l'MB+4 e va bene lo stesso. Sì, va. Ma come lo potrà attendere? Uso questo già, MB+4, va. Anche io ho l'MB+4, questo qui male funziona perché. No, va bene, ma io preferisco sempre quello là, l'MC. Vendesi MC60, io ce l'ho qua, mi nuovo nuovo. Non vendi nulla, vai. Senza chi c'è, Mosro? Ma tu hai questa bomba, 270 euro. 270 euro l'ho visto nuovo. Io ho preso il secondo mano e mi è venuto 700 euro. Vabbè, io ho pagato molto meno già. Nuovo, nuovo, nuovo. Ancora nella scatola era qua. Ma io l'ho preso dal negoziante, capito? Preso dal negoziante dove ho preso l'altro apparato. Quello che ho preso io già l'ho preso nuovo, era ancora nella scatola, ma ha dato una persona, non ti posso dire qua chi è, perché non lo stavo usando. Ma tu c'è qua, ce l'ho voi, e me l'ho preso. Ne avevo due MC60, ma uno l'ho venduto. Con quello che ho venduto me l'ho comprato un altro e mi sono arrivato con lui. Quando uno sai, ogni tanto ci vuole. No, stai scendo un po' su di là. Buongiorno, lì. Lì si è entrato. Ancora fa? Momento, adesso, come ho detto, ancora si stava scendendo bene, poi si è abbassato di nuovo. E appena un attimo. Sparendo sta. La radio sta sparendo. Cambiati la batteria. Alice è cotto. Magari. Cazzo, ma come faccio a chiamare con 2009? Stavo per attaccare i galaxy mille. Sei tutto saturo, ma cosa stai usando? Lineare. E che io? No, io. Se sei 9.30, no. Mi lo sembrano i bidusi. Io sto usando il coso, il 140, non il lineare. No, perché seguo il sacro allora? Non lo so, sarà un capvecchio, siccome stavo usando il lineare ieri con la tomografia, capito? Il piede sarà un incendiato. Non so, che no? Tu la fai chiaro subito a tanto. Ah, è saturo. Non è come ci va sempre. Aspetta, sto usando il microfono normale. Adesso sto scendo meglio. È una scena di Santonello. Esci meglio, dici come su che esci peggio. Guarda adesso già. Adesso va bene. Era TTT, c'era la polvere sicuramente. E allora? Adesso meglio sto scendo, sì. Oh, sto da Rauca, sì. Da Rauca, sto. Mi Antonello, abbonami a Antonello. Ciao Antonello. Ehi, a salutone a tutti. C'è il potenziometro delle PWM che stanno un pezzo di balle. Aspetta, adesso, ecco, adesso è a posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi ha detto Giovanna che se vendevo il primo mi spaccava la testa, quindi allora ho preso e gli ho dato a lei. Io mi sono preso lo scooter. Lo scooter mi si è preso. Ehi, ha comprato lo scooter, tipo UFO EcoBike, capito? L'unica cosa che c'è di bello è che ci sono 459 euro di batterie 12 volt, ne monta due. Ascolta, non puoi guidare quello senza patente? Sì, posso usare senza patente, senza assicurazione, senza nulla, senza casco. Nuovo l'ho preso. No, seconda mano l'ho comprato. 150 euro da un amico qua vicino, qua a Caporazzi. Capito? C'è un garage, ce l'ho. E l'ascensore, peccato che non entra, cazzo. Ma quanto è grande. Ma quelli, quella moto degli invalidi, quelle che ha tre ruote. Quattro ruote c'ha questo. Quattro, che camminano piano piano. Ehi, la cammina un bel, solo piano piano, non mi si vede quello di Giampiero quando mette velocità massima, a vedere se cammina. Anche Giampiero c'è? Ehi, c'è anche Giampiero, Giampiero c'ha quello più piccolino, c'ha quattro ruote, lo stesso, è un treno, è col joystick, io invece c'ho il manubrio. Ma quindi sta uscendo Giampiero? Ehi, si è fatto la, l'altro giorno, la, abbiamo fatto la, come si chiama, la passeggiata della, già lo sai che c'era la Madonna di Latte Dolce, lui era con quella carrozzina, una specie di macchinetta elettrica, come la vuoi chiamare, quattro ruote, ma un treno, e che autonomia c'hanno queste macchinette qua? Non lo so la verità, perché non ho, ho appena fatto 2 chilometri, già lo sai il giro che la batteria era ancora carica, quindi penso che faccia almeno 20 chilometri, 30, una cosa del genere. Comunque la spesa lì ci sta. Ah? La spesa ce la puoi mettere lì? Sì, nel mio sì, in quella di Campino no. Che non sono piccolo normale, avanti fra. E guarda adesso Gianni, se va bene, 1, 2, 3. Adesso una bocca. Forte. Abbascia. Abbascio. Beh, Emanuele, voi mi ascoltate, sì. Ma adesso sei col K. Cosa? Sei col K adesso. K di positivo, l'ho acceso dove mi stavo andando. Il K è l'MC60, va bene? E io, in uso fra. Bene, dai. Vai, Natali. Oh, io. Tutta questa gente col K, io non ne ho che. E si sa che è durdora. Sì, ma quando me lo tornano guai. Vabbè, questo non è che sia. Cresce forte, dai. Bello, cazzo, una bomba, è fra. Ma l'ho modificato quello MC60, no? No, questo è originale. È la radio che c'è così questo. È un forte, non va bene. Adesso sto scendo questa vetta, beva. E adesso come arrivo? Tra 9.40, sì. Bene, mi ascolti questa vetta? Sto uscendo, sì. Già, stai uscendo. Come ti arrivo, Antonè? Fa passaggio. 1, 2, 3, 4. Vai. 9 più 20, radio 5. Che ragazza. A me sicuramente non mi ascolta Antonello, dai. Sì che ti ascolta, voglia, ci mancherebbe. Ma bacia! Vabbè, Emanuele. Ma cosa Emanuele, cazzo? Buf. Ciao, Tunì. Cazzo, ho capito, Tunì, lo so, per Maria Emanuele. Allora. Ciao, Tunì. Vabbè, Tunì. Ciao, Franco, Dubbio. Antonello e Natalino. Che ragazza. Cazzo di vecchietto sta vittoria. Oh fra, com'è questa radio? Sì, così così, dai. Già va bene, normale. E bene, certo che è normale. Però un po' sarà super, non per adesso. Però un po' ancora è presto, dai. Devo cambiare anche tutto, cavo, palo e tutto quanto. Quando ci avrò 8 metri di palo, con l'antenna, allora ne parliamo. Ma già va bene, dai. Il segnale è buono qua. Non è in capo solo la, mia, la radio, è così, va bene, dai. C'è sempre qua, Gigetto. La radio è presente, io ti sento bene. Molto presente, è abbastanza forte per essere normale. Il microfono è normale, più che normale. Sì, è abbastanza presente come radio. Non è di quella radio strana. Cioè va bene, questo è il president sicuramente, con l'80 canali. No, questo microfono è preso, l'ho messo nel corporato a canali. Te, Antonio, come ti arrivo? 9.20. Non ho capito. 9.20. Radio 0, ecco. Sto uscendo. Cazzo, questo microfono mi sta rompendo. 9.20 ho detto. Ah, vabbè, allora dai. Cazzo, questo buco, antenna automatica, non chissà cosa sarà. Ma cosa, se non arrivi 9.30 mi si arrivi, cosa? Ho bisogno di l'antenna da 8 metri. Natali, devo cambiare il cavo, ma il riparo metto automatico, più c'ho l'antenna, ho preso il cavo nuovo, quindi automaticamente adesso sì lo posso fare con l'ORG 213. Ah, cappa. E vabbè, comunque sta arrivando a fare lo stesso qua, anche così. E perché tu hai messo l'antenna sul tetto, principio, eh? Lo so. Andà bene Meda. Ehi cazzo, se stavo... Ah, Manuele, lo stava coprendo la propagazione stasera. Dimmi tu. Perché c'è sempre la tenia attaccata al balcone, eh? Ehi, lo so, ma io lo sentivo sempre bene, solo che arrivavano furti quelli di Furiga. Anche Gianni mi lo sentiva male per quello, perché c'erano questi di Furiga, arrivavano forti. Gianni, e tu non ci andare più da Protollella, mi sembra meglio dei bacci. Sì, da Protollella. Ehi Gianni, va da Protollella qua. Infatti gliele fa particolare a lui, gliele riempie e pesa un chilo e mezzo di crema. Che cattina. A me me l'ha detto, io ce l'ho dico a nessuno, però me. Hai parito Gianni? No, mi sono spostato per andare in bagno, fra, ma qui. Sono spostato per andare in bagno e poi stavo cambiando radio. Eh sì, e poi si è mangiato la frizzella, il canolo. No, cos'è il canolo? Oh, yeah. Guarda, ci metterei la firma, però vorrei sempre la glicemia come c'è in questo periodo, 87, 75, non mi sta più salendo. Grazie, ti fai 4 insuline al giorno, cazzo, non ho più preso già. Se fosse un miracolo, se la fosse pure la ostia, vai da vedere. Anche io ne faccio una solo, no? Me la voleva togliere, ma per non darci un'altra pastiglia, allora l'ha lasciata. E siete sopraffopolati. Ho detto, anche io ne faccio una la notte. Mi voleva togliere pure quella, però per non darmi un'altra pastiglia me l'ha lasciata, perché con la pancreatite che ho avuto non è che bisogna scherzare. A me mi ha detto, te la tolgo se tu mangi giusto, regolare, ci fa tutto so. A me mi piace maniaca, dove vedo la cosa bella, me la mangio. Allora, facciamo il dottore, metto, se lì mangia regolare come le dico io, le tolgo tutte, insulina e pastiglie e tutto. Franco, ci sì. Ehi, il parcheggio si è domandato, provate a farci caffè. Ah, ordinato, fammi un caffè. Oh, basta. Avete parlato in due. E a farmi il caffè sono andato. Lo sapevo io. Saluta mia Lucia. Cara. Dicevi già. La Franco, stavo dicendo, vabbè, anche a te, vabbè, la stessa cosa. Com'è la radio, forte oppure la devo regolare, ma la devo abbassare o cosa? La radio potrebbe andare bene, ma il rumore di alternata che c'è sotto è molto forte. E si conferma, c'hai l'alternata già. Sì, già lo so, è il microfono, guarda adesso se c'è. Adesso va bene. Perché il microfono, c'è a fianco l'apparato fa alternata, boh, non comprendo, balosa. Ehi, ti fa rientro, ti fa. No, oh, se lo metto sulla gamba oppure da un'altra parte non lo fa, capito? Non lo fa. Sì, ma non è forte, quando parlo non si sente nemmeno. Vedi già, io per cambiare adesso dopo mi scongelo una taglietta di falso al forno, sono a posto. Vabbè, fa bene. Quando non voglio già la mangio anche io. No, io ieri, sai cosa mi sono fatto? Mi sono fatto le uova sode ripiene. Ripiene col tonno, il giallo dell'uovo, la maionese, e lo sai quanto era buono. E te ne pare. No, io tutte le ho fatto 6 figlie. Una me l'ho mangiata, poi una l'ho portata da una persona e l'ha trovata mio fratello. Adesso ne ho ancora 3. Anda bene. E quella male, 6 figlie, all'ingrosso. E sono tutte da 1,2 kg a 1,3 kg? Ti va l'abbondanza, già isso. A me piacciono così. C'è besciamella, c'è fontina, prosciutto, tutte cose. Sugo, ragù. Ah, questo sugo con i pomodori freschi, mamma mia, una bomba, Io invece domani mi faccio una bella spaghettata con spaghetti numero 7, che a me piace, mi piace, col pomodoro, pomodoro ciliegino e due fette di basilico. Dimmi, che amaro. Che amaro. Chi si deve mangiare più sani, Tony? Lo so, mi piace un po', troppo mi piace. Veglia. Andava. Franchino di prima. Prendete, mi sto controllando il caffè. Il caffè non si controlla, si beve, mi. Si controlletti tu. No, era già fittina, perché l'altro giorno mi ha fregato. E allora Gianni, che si dice quelle zone? Sto facendo una prova, guarda se così fa parlata, Tony. Controlla, 1, 2, 3, prova. Sì, ma se non parla è meglio così, se non c'è la tannata. C'è. Ma perché non li fai la massa a tutti gli apparecchi, così non ti ne invadono di gasotto. Tu hai detto che Massa non è fama, anche non è figliolo di papà papà. Ma Massa l'ho fatta, ma poi non fa lo stesso. No, non è Gaiso, Budino è fatta lei. Vabbè. Gli altri apparecchi l'avevo fatta e non me l'ha più fatta, invece questo qui non lo sta facendo. Capito? Gli altri apparecchi la massa l'avevo fatta e non me l'ha più fatta, invece questo lo fa lo stesso. E boh, che genere mancanza di massa? Al canale 11, a fianco a questo, c'è Propagazione Santiago 95. Cosa da pazzi? Se no che mi danno rivendi fortissimi. Qua, in questo canale, mi di la Gianni. Ehi, stava arrivando Santiago 9 anche. Forti, sembravano di splatter però. Io sono ben forti comunque. Forse erano dall'11.000 quelli che stavano modulando, davvero. Evidentemente sì, se mi tappavano a manuale mi tappavano. Cazzo, lo sentivo basso del radio, mai così sentito così, lo sentivo benissimo a manuale io. Perché arrivavano forti quelli. Vabbè, comunque. Lo sentivo molto basso anche io, lo sentivo tutto a livello QRM. Troppo voce arriviano lì. Oh, l'ultima la volete sapere, non ridete però. Sì. Allora io avevo fatto 2 mesi fa una richiesta a cosa dell'ambiente per le terribili. Dopo 3 giorni sono venuti l'ASL, la fotografia è tutto fatto, è mandato la polizia municipale. Poi mi hanno mandato da una bassa all'ascia, se non che alla fine all'ecocentro, che là c'è il coso dell'ambiente. E questa dottoressa ha detto, ma io non c'ho il muro, non mi è arrivato niente, ma sono pensato, vabbè, tanto. Ho detto, se io non vado niente in tasca da questo ufficio, sono andato via a Roma al terzo piano, tribunale, e vado da procuratore della Repubblica. Allora non aspetta, venga un attimo in ufficio, controlla, apre un computer. Ecco è la domanda sua, vede che giusto è arrivata. Miracolo, guarda, ho detto, sono rimasta così. Capita, non vira, e va di colpo, adesso c'è, e vabbè, comunque. Oggi mi chiama l'ASL e mi fa, ma lì è andato la polizia municipale? No, io sto ancora aspettando che fanno qualcosa con queste termine. Dopo che mi ha chiamato la polizia municipale e dice di andare lui a visionare queste termine, e ho detto, ma scusa, voi siete già venuti, solo glielo ho detto. E metto, la devo telefonare anche lì. Ah, e perché? Per sapere se la casa è sua. E ho detto, scusi la mia ignoranza, ma mi pare se la casa era mia, io andavo a fare la domanda per le termite, ma gli chimici sono tutti matti, anche quando mi chiamano. Ma mica sono scemi veramente. La girano la scarica all'altro, le cose. Oh yeah. In Italia siamo. Ti pare io che sono intorno a casa mia, ho le tiriti, io me la tolgo subito, se mi fanno la multa, ma sta scherzando. Mi dai vigili, dico scusi, è la mia ignoranza, ma voi dovete fare un colloquio di scuola, penso, come fa a fare il vigile urbano lì qua, quando non sa certe cose? Dice perché? Perché scusi, ma se era casa mia io avrei chiamato a voi, sono andato al fuoco dell'ambiente per le ferite che sono cancerose, cioè, ma stiamo scherzando? Io dico ci farà un fosso, guarda. Ma se dici così la volta che non ci vengo, però a fare queste cose qua, non sono in Venise, dopo vedrai come vanno le cose. Se no se li dico sì, come sta a un potente, non ci vedono nemmeno. No, perché dico, è con questo mi, se andate a venire, tornando già al Procuratore della Repubblica, vi faccio un esposto, poi vedete voi come andrà a finire. E quando tu nomini certe persone comincia già a cagarsi la gente, come con la dottoressa. A noi ci hanno detto a non toccarne quando lavoravo al comune, mi. Proprio le termite, sanitano toccarne assolutamente, perché noi non eravamo specializzati, ci vuole una ditta specializzata per toccare quella roba lì. Lo so, si mettono la tutta completa con le maschere e con i carburativi, lo so Natalia. No, è roba di tiro, edi non sono autorizzati. No, loro mandano la squadra, mica vengono loro. Loro sono per verificare chi è il padrone e dire, oh bello bene, sai che hai già mai presa, entro tozzo, sino multa, e poi veniamo noi, interveniamo con la ditta e poi paghi tutte le spese. Questa è la procedura mia. Ho capito, Tony. Ma tu lo sai quanto gente si è ammalato il 25 aprile alle poste, quando c'erano quelle tegole nei fermenti, quante gente si è ammalata ai tumori? Lo so, anche lì ce n'erano già. Chi c'era una brutta bestia alle termite? Il pulvisco che tu respiri, non lì è che ti crepa, è vicino a casa, non c'è il bombone del gas con la tettoia nei termite. Se secondo me non lo vedo, lo dà su, si vede dalla strada qua, e non l'ha visto mai nessuno questo coso qua, l'ho detto anche a uno di quelli del palazzo che mi fa, ho detto, ma quando raccogliete questo territorio, lo sapete dove si butta? Lo sappiamo, ma questo impianto qui non lo stiamo più usando perché l'abbiamo fatto, abbiamo messo il gas di città, e quindi il bombone non lo usiamo più, ma cosa avete? Dismettetelo se non lo usate. Tu pensa, Nattarì, cosa ho fatto io, perché intanto la città questa cosa non le parava, infatti sono passati già 2 mesi, me lo so tutto quanto, ho comprato tutto quanto in nylon, quello grosso, bello robusto, me lo so tutto bello tappezzato all'interno, così se cade qualche cosa cade sul nylon e protegge a parte delle termite, ma anche quando piove non mi cade l'acqua sotto la veranda, capito? Tutto me l'ho cucito con dei chiodi piccolissimi, testa larga, e con la rondella, è riuscito un bel lavoro. E vabbè, non è che ho speso molto, ma l'ho fatto perché dopo farò per forza. Poi Gito, quando cambierò le termite, i capi sono gli altri, come hanno detto, siamo qua. E io intanto mi proteggo io, poi si vedrà. Io lo grido, Doni, non vedo un funano questa cosa. L'ammazza, Ma tenete il pulvisco che si forma, si vetrifica, e poi forma un pulvisco che poi vola a casa e tutto lo respiri, e quello è il problema. Ma Gianni, guarda che io fino a 2 anni fa lavoravo nelle scuole, tornando ancora dietro nel tempo, sono passati parecchi anni però, in via Solari l'ITAS, perché l'hanno trasferito poi automaticamente in piazza Marconi, cioè dietro via Porcellana, all'inizio dell'angolo di corso di via Medola, perché praticamente quando noi dovevamo lavorare praticamente toglievamo queste cazzo onduline e sotto era tutto lana di vetro, ecco fa cosa viene la magnazzola acuta, a me la mazza di rivaria, si va a pulire la mascherina, se no che un bel giorno che dobbiamo passare dei cavi eccetera, c'è la dottoressa, fotografie, la maestra, una professoressa in scuola ha fatto fotografia con Sardegna, l'hanno inserrata di coipo la scuola, tutti trasferiti. E anche la lavetta micidiale, da respirare è un casino già. E a me mi è andata bene, più di una volta. Sì, la lavetta l'ho usata quando facevamo i parchi nelle ville, con questa micoria facevamo dei lavori all'inizio, quando avevo finito la scuola, avevo trovato questo lavoro, questo falegname che faceva i parchi nelle ville. E ci faceva mettere la lava di vetro dietro. Facciamo la magnazzola, come dici tu, tutto quanto a magnazzola mi va via. Ci vuole l'ana di roccia, non l'ana di vetro, capito? È un casino. Prima il cappotto lo facevo quando facevano delle ville, dei palazzi, eccetera. Doppia filimattoni, metterla là dentro ci mettiamo una mazza di nevaria, vabbè prima no, forse la gente non lo sapeva cosa ne so. E le passi non lo sappiano, no. E chi si lo sappiano si cagliavano i muti. Dai, fa fatina, possibile sui vecchi anni. E piano piano sono scoperto tante cose, molte persone prima morivano, non sappiano cosa morivano. Ripate come l'urtica, che sa cosa le mani in vetro, cuia. Sono tipo anche piccolini, piccolini, che. Infatti, ma a me non sa, bagnato mi dà l'idrogutto, ah, ti viene fastidio, che. Se me lo ricordo, anche se facevamo la tuta però per entrata, la mazza di rifare. Come dire a caso, la doccia è pressa, poi domani torna chi dà, no, non vi credo, che. No, guarda. Sono materiali che usano, cazzo, se fanno nessun criterio, che. Non lo mai, io non so che fanno male, l'ho dato a una testa. Perché la gente non gliela fu tenuta, però è cascia di naco preso. È un ultimo isolante, sì. È un peggiore invece per l'umanità, che quando rispiega la roba si grippa. Mamma mia. Vabbè, dai. Andrà bene, Meda. Poi, ma la territorio in curiosità, ma tu quante volte la maggiore la glicemia? Natalie. Sì, dimmi. Ho detto quante volte tre misure la glicemia? Tre volte la settimana. E sarebbero sei volte, da. Perché faccio prima e due ore dopo. Tre volte a settimana. Io me la misuro 8 volte al giorno. E catta, a me mi ha detto di così purba cosa me la tendi di manquicchissimi. Mi hanno detto così, anzi mi hanno detto due volte, io tre volte, perché c'ho quella roba là, è logico che posso abusare. Sì, ma Natalia, io posso prima colazione, e mi giuro. Dopo 2 ore dopo colazione, ok, e mi giuro. Prima di pranzo, e mi giuro. Dopo 2 ore dopo pranzo, e mi giuro. Poi arriva verso le 6:30, me la misuro di nuovo, perché no? Ok, ottima. Me la misuro prima di cena, me la misuro dopo cena, e poi me la misuro la notte, tu pensi anche luce, me la misuro. È sempre sotto controllo, ma io non è che faccio, ma io faccio bene, perché ce l'ho sempre sotto controllo. Che poi di crescenti proprio non mi mancano, già lo sai. Sì, io lo mattezzi, mi la so con misurando di più, qua cosa posso farlo, va. Prima no. Ma cosa da giudizio di questa storia? Ma che sono motivi che non pulivo? Catta, con una cattola cosa fai? Nulla. Ne ha da 25 voi. Ma io, che fanno schifo. A me si dice adesso, dovrei ritirarle, da più ottobre non ce l'ho dato a me, sono andato anche domani. Me danno strisce 125. E poi gli aghi, e poi ragazzi, qua si quattina non più. Ma io non aggiunta prima, non aggiunta prima, se ho fatto vedere, ho fatto una foto quando ne ho, non me l'ha fatto nulla. Quindi, io posso anche non andare più a ritirare, ma le meglio, allora per pellini per il recupereggio. Poi, capito, te lo sai. E infatti, ti mandi in duca, se fanno schifo fanno, a me una scatola me ne davano, ma io... Gianni, tu quante volte la misuri? Io prima di colazione, prima di pranzo, prima di cena. E poi quando vado a letto, prima di andare a letto, prima di farmi i suoi, non la misuro. A me mi ha detto, dottor Fagillo, di misurare un giorno prima di colazione, un altro giorno prima, dopo colazione, e via dicendo, capito? Tutto prima, poi dopo, sempre dopo 2 ore che ho mangiato. E invece me lo giuro prima e dopo, non me l'ha fatto nulla, ce ne ho, quindi non me l'ha fatto nulla. Ma per te è diverso, Tony, per te è diverso. Io faccio l'insulina, se non la misuro, quanto me la devo fare di unità? Se non so quanto c'ho di glicemia, normale che la devo misurare. Poi l'ho detto alla tua faccia, ti ho visto che ho fatto a poco, e l'ho detto il 22 settembre. Ma scusa, dottore, io me la misuro la notte, 112, perfetto, ok, mi curico. La mattina mi alzo, 135-140, ma anche di tutti cosa ho mangiato sognato, chi ha già mangiato? Dice no, aumenta leggermente, ma non ti preoccupare, anche sto aumentando. notte, di giorno, già cala da solo. Sì, a volte leggermente, perché a me succede la stessa cosa. E non si capisce nulla. Vabbè. Niente, mi sono ritirato due gomme che ho ridato a fuori, ce le vedi già, quanto sono belle, nuove. 70 euro due gomme, 195, 50, 15. E mi hanno mandato uno sconto di 40 euro, il prossimo che ho pagato 70 euro due gomme, adesso il prossimo che io le ordino le altre due, e ne pago una cantata a 30 euro, quindi con 100 euro faccio 4 gomme. E che gomme sono? 4 stagioni giù? Invernali ho preso. No, io le vedo 4 stagioni giù. Solo quelle devi cambiare, l'estate poi devi mettere le altre, perché quelle non vanno bene. Scusa un attimino, cazzo, perché se tu usi d'estate l'invernale cosa succede? Si sciolgono. Allora, se fai il contrario, se usi quelle estive, quelle invernali d'estate, si consumano subito. Ma non è vero, io ce l'ho avuto sempre, le ho prese sempre da questi qua in continente, da questa Irica, come cacchio si chiama, e ti dirò, sono troppo soddisfatto, mi hanno fatto quasi due anni perché sono usate nuove. Io ti ho fatto una foto e tu vedi nuove di zecca, perché non so se in Germania certe gomme tu arriva qualcosa non le puoi più usare, e loro mi hanno a bizzeffa e loro se le vendono, capito? Ma io ti faccio adesso, ti mando la foto, ma nuovi, se non si dire nuove, ma te le piazzano qua, chi te le piazza? No, attenzione, io ho chiesto chi vuole 12 euro a gomma, chi ne vuole 25, chi ne vuole 30, insomma, andate a ammazzetevi. E come fai, scusa, come fa a piazzarle? Oh, Gianni, è certo che ci vuole la mastroia a piazzarle, beh, non ti preoccupare, io vado dall'amico mio Gigetto, che c'ha tutto quello che sto pensando a esso. Ma no, tu c'è l'amico, però i gommisti non sopportano questa storia, che vengono le gomme così, e quindi non te ne piazzano, non te ne piazzano, ti fanno paura. Non marcare subito, quello che non paghi prima lo paghi dopo. Lo so, loro lo fanno perché tu non hai comprato da loro. È normale. E già. Allora. Te lo mandate. Poi c'è il telefono in carica dentro, quindi dopo le guardo. Sì, ma io ho quel problema lì, anche se li ordino, le mie costano 220 euro l'una le gomme, e se li ordino e poi non me le piazzano, cosa faccio? No, te le piazzano, però ti farò pagare 15 euro l'una la gomma, capito? Allora, 12 euro e 50 mi prendo quel che c'è dopo il Marco Lombaro, la canica, perché ti ho chiamato, la stessa delle gomme le vuole 15 euro a gomma, quell'altra per la dita ne vuole 20 euro, ma c'è la via luci. Non recuperare già Edi. E beh, è andata lì. E un attimo che sto apparecchiando qua che devo mangiare. Ma perché? Come sono? Ok. Che ore ci sono fatte? Allora, sono esattamente le 7:20. Sono già tardi. Siamo più presto. Se c'è da portatore, se c'ho gli amici che sono gommisti, cioè che ci penso. Vado da Lopez. C'è Mario, ma la faccio piazzare da lui. Se comunque già ti ho mandato la foto, ce le vedi nuove? Ce le vedi nuove? Troppo bella, cazzo. Sì, ma a chilometraggio la gomma ti deve fare almeno 5.000 km, ma 5.000, 50.000 km. Ma io mi sono calcolato in un mese, sai quanto chilometri sto facendo? Dalle 1.500 ai 2.000 km al mese. Già, io sono sempre in giro, Io da una parte all'altra vado anche al Medo, sono andato a mio figlio, poi adesso un po' di meno, però ripeto, da Sassari giri, ma anche te ne accorgi, ma ne più chilometri. Io sono uscito da Camazzano, avevo guardato quanti chilometri ci avevo, e tra una cosa e l'altra, l'ufficio, chi d'altro, insomma, riferirà, ha fatto 160 chilometri a giovedì, cacchio, ma come ne sono accorto, siamo così, ma i Sassari dei vari chilometri, le noghe, a partire da Sassari, giri, da parte all'altra, poi sto facendo anche fisioterapia, e i chilometri li fai. Tu sei anche fuori Sassari, quindi da lì a Sassari devi fare i chilometri per arrivare a Sassari. Ehi, anche quello è vero. Vabbè. Ecco cosa vuoi fare. Andrà bene. Vabbè. Io sto a 10 minuti tolgo la pasta al forno, che ne faccio una gara e la metto nel forno. Ma già pronta la lettiglie? Sì. E io compro quella precotta, me la costruisco, tutta quanta, poi metto la cosa, quella carta alluminio, che mi ho comprato un rotolo a 150 metri, carta forno a 150 metri, io compro a rigrosso proprio. E quindi me la frigge via. E piano piano quando mi ci metto una, poi poco il forno e vai. E sono già precotte, capito? Quando si squaglia tutto il formaggio che c'è sopra, la besciamella, eccetera, e a mangiare. E non è mangiato troppo il pasta al forno, che c'è la che ci metti sale davvero, perché tutte le sono bombe, perché c'hanno un po' di condimento. Poi ci metti anche il prosciutto, tutto. Il prosciutto forse è il più leggero che c'è, il più sano, il prosciutto cotto, quindi. E tiro cosa? Il sugo e comunque sta anche a fare quello che ho fatto io, anche farne due alla volta di pasta al forno stacca, perché stai in piedi, prima di fare un bel sugone, un bel tagomone grande grande, e metti il sugo, il formaggio grattugiato sopra, metti la sfoglia, poi ci metti nuovo il sugo, poi ci metti nuovo il formaggio grattugiato, poi ci metti il prosciutto, poi ci metti le fette di fontina, e poi ci metti la besciamella, insomma, e via dicendo, e già, fare così, ma quando cominci a fare 5, 7, 8 strati, comincia a pizzarti, a stare sempre in piedi e ti va di maracchina. Io quando ne ho fatto due ero già stanco, la verità. E io anche tu sei esagerato, devi impari, basta farle quando ti serve e basta, come fanno tutti. Ma tu la besciamella la fai, la compri già fatta. No, io l'ho già fatta, non la giocare e vada già, fa carità, no. Ma madre la faccio in valida, besciamella col burro, se la faccio in valida. Ah, quello che la luce mi stava splatterato, che tipo che è forte. sono con lineare attaccato sicuramente. E come sono straniere, che non si comprende nulla. Vabbè dai, già che chiudo, che c'è anche il cane che mi sta chiamando, insomma lo so, capito. Quando vuoi vedere un certo le mi rompa le scatole, ragazzi. Ok, così me ne approfitto, metto già la pasta al forno, così faccio mangiare quando mi ci sento il giornale. Ok, ciao Natalino, se sei ancora ascolto, ciao Franco, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, chiudo. Ci facciamo con la pasta al forno, mi. Grazie, attenta. Ciao ciao. Avanti, Natalino. Sì, sto cominciando a mangiare, dai, per salutare a Tonino, che stava andando via. Dai, vi saluto anche a voi e che devo mangiare, se no abbiamo un macello. Franco, ci sei? Ciao ciao. Ciao Natali, ciao. Franco, ci sei? Vado avanti, ciao a tutti.